Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buonasera a tutti dal Groove Mastery Studio per il soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Buonasera a una giovanissima Silvia Barba che da quando frequenta il Groove Mastery Studio ascolta musica ed è piena di note e di groove, sta ringiovanendo a vista d'occhio. Sai che hai ragione? Lo so. Lo sento anche dentro di me che sto ringiovanendo. Invece purtroppo questa sera per la prima volta per lui seduto sulla poltrona reale degli ospiti illustri, lo trovo abbastanza invecchiato da quando non frequenta più il Groove Mastery Studio e quindi le note non girano vorticose come un tempo. Per lui ho il piacere di presentarvi come nostro ospite per la prima volta al soundcheck il ritorno di Francesco Tromba. Buonasera Francesco. Buonasera a voi. Ti è piaciuta la presentazione? Tantissimo. Ecco, no vabbè. Pure troppo. Ma tu hai preparato la scheda per Tromba? Io ho preparato la scheda per Tromba, però devo dire l'idea che fosse qui oggi a parlare della sua vita è più interessante di qualsiasi precedente. Voglio sapere cosa sta facendo adesso nella sua ma vita. Noi lo sappiamo che cosa sta facendo. Se lui ha lasciato il soundcheck è perché è stato richiesto dalle alte sfere della comunicazione nazionale e internazionale, perché adesso da un po' di tempo se la fa con i grandi giornalisti e per questo è invecchiato, no? Sì. Sei invecchiato, come va? Anche perché l'età media è abbastanza, cioè è più alta. Io sono il più giovane. E credo che aumenti anche il senso di responsabilità. Insomma, lavori con uno dei più grandi giornalisti italiani. Tra l'altro un uomo fatto di comunicazione e televisione come Giovanni Minoli. Sì, è la televisione in persona, diciamo. La televisione che va in radio. Si è spostata alla radio, però va bene, sei contento? Sì, sono contentissimo. È un lavoro abbastanza usurante, però. Ma si vede. Sì. Non dovevi dircelo, lo abbiamo vede benissimo. Già. Per la sveglia, dici che la sveglia molto anche presto. Anche per la sveglia, soprattutto sì. Per la sveglia. Allora, mio caro Tromba, sono contento di rivederti e sono contento che mi hai anche portato delle novità discografiche, perché comunque si perde il pelo, ma non il vizio, pur lavorando su Radio 24, sulla comunicazione, giornalismo e tutte le altre cose, non facendo musica, continui però da appassionato a ricercare. Sì, sto comunque continuando a seguire la musica, ovviamente ho molto meno tempo, quindi magari appunto tu ci arrivi prima, spesso arriviamo alle stesse cose, però io ci metto un mese in più. Lo so, noi invece ci mettiamo 2 mesi in meno. È la vecchiaia, Tromba, è la vecchiaia. Allora, il tempo che non c'è. Tromba, vabbè, ci racconterai un po' di cose. Intanto io lo voglio dire che il signor Tromba, come lo presentavo una volta, è un giovane, non più tanto giovane, dopo questa stagione con Minoli, laureato in scienze della comunicazione di massa e non. È vero? Sì, anche non di massa. Anche non di massa. E quindi io lo convocai proprio per questo motivo, perché avevo bisogno di un esperto per capire meglio i grandi sistemi della comunicazione. E sei contento di averlo chiamato? Sì, ma mi è anche molto dispiaciuto quando poi è andato a finire da Minoli. Vabbè, ma ci sono io adesso. No, infatti sono contento anche per te. Non essere gelosa, Silvia, dai. Allora, direi di andare subito alla musica perché abbiamo rubato tempo e vorrei presentare agli amici Radio 24 un artista eccezionale. Io devo subito dichiarare il mio amore per questa signora, perché è una signora, visto che molto spesso anche attraverso i suoi Twitter comunica la sua gioia di essere moglie e mamma. Artista canadese, pianista, cantante, ha registrato 3 dischi, 3 album a suo nome. Questo secondo me è quello che la consacra anche come autrice, già vocalist richiesta da Sting, Susan Vega, ma bravissima pianista che viene dalla musica classica, tanto jazz per lei. Album intitolato House of Many Rooms, lei è la formidabile Leila Bialy e con The Radiance Project il brano è splendido, si intitola Little Bird. da non perdere assolutamente, secondo me questo è uno degli album più belli della stagione, è stato colonna sonora del mio Natale, lo voglio raccontare subito. Laila B. Haley al Soundcheck Radio 24 con The Radiance Project, album intitulato House of Many Mirrors. Allora, no, House of Many Rooms, scusate, che ne pensi? Beh, una voce molto bella, eterea, molto intima, una grandissima autrice. Tu stai tradendo la tua Becca Stevens, te lo voglio dire. No, a me piace razzolare in questo harem di talenti. Ecco, però lei è anche, insomma, molto considerata come compositrice, tra l'altro, perché produce e scrive i suoi brani. Guarda, il disco è bellissimo. Sì, arrangia pure molto bene. Molto bene, l'album è abbastanza complesso. Intanto sono tutte melodie bellissime e questo è già un punto di forza. Poi l'utilizzo anche di orchestra, di sezione di fiati, insomma è un lavoro molto raffinato, molto ben realizzato da Laila B. Haley. Io direi di ascoltare un altro brano, e anche questo è bellissimo, un po' retrò nel sapore, ma molto affascinante, potrebbe anche essere utilizzato come colonna sonora, che so, di un film della Disney. Il brano si intitola You, Laila B. Haley al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Ancora un tributo a Bob Marley, I Shot the Sheriff, questa è la versione contemporanea del collettivo Fans Low Ride con le voci di Moses Patro e Joey Dragland, e quindi la famiglia Marley continua a mettere da parte diritti d'autore, la gestione delle immagini di Bob Marley e anche altri introiti per loro. Sì, c'è anche un ritorno all'agricoltura della famiglia Marley, quindi sono diventati un vero e proprio la rappresentazione del capitalismo familiare, quindi hanno anche delle proprietà terriere dove coltivano medical marijuana, quella originale usata. Come se fosse rucola o Gran Turco. Loro sì, hanno proprio dietro casa l'orticello, alcune migliaia, quante migliaia di ettari sì, hanno. Sì, lo esportano anche in tutto il mondo, lo vendono. È vero. No, visto che c'è anche il Twitter, no, per la medical marijuana Marley, garantita proprio dalla famiglia, e tu, mia cara Silvia Barba, la puoi acquistare via internet e te la spediscono a casa. È dello stesso, diciamo, della stessa fattura, lo stesso principio che usava Bob Marley. Assolutamente. Quindi infatti, loro lo fanno per tramandare la tradizione. Infatti, dopo un paio di boccate inizi a vedere i dreadlock che vengono fuori senza problemi dalla cute. C'è la pianta originale proprio di Bob Marley. Sì, no, loro, da quella. Io non poi ho capito questa cosa. E loro fanno le spedizioni in tutto il mondo del prodotto. Beh, ovviamente dove è legale. Nel dove senso, è legale. Quindi altrimenti se tu la ordini in Italia, viene senz'altro fermata in dogana, no, e vengono a casa a prenderti quei cani e ti portano lì dove dovresti andare. Però se la ordini in dalla California ti arriva. No, loro te la spediscono, sì, poi sì. Sono, il problema è il tuo, no? Sì, dovresti avere la ricetta fatta dal Green Doctor. Sì, ora tra l'altro anche in Italia sembra che ci sia un'apertura. Mi sembra però non da fumare. No, magari sempre a uso terapeutico. Sempre a uso terapeutico, però lì se compri nella Green Pharmacy puoi comprare il prodotto e fumarlo, oppure comprare i biscottini, oppure adesso c'è anche il vaporizer, ovvero la sigaretta elettronica che ti permette di poter fumare ovunque l'olio di medical marijuana. Conosco degli amici che hanno 70 anni, non farò i nomi, lì negli Stati Uniti, che vivono camminando di per vaporizer. Le città. Esatto. Invece del famoso Ventolin, usano il vaporizer, due boccate di vaporizer di medical marijuana e sono felici. Io ho mangiato certi ciambelloni con la marijuana buonissimi. Brava Silvia Barba, no, mi piace dire. Sempre mamma, non ascoltare. Sei un tipo interessante. Dopo che hai fatto? Hai cantato che cosa? No Woman No Cry. Bisogna stare molto attenti perché quelli si digeriscono dopo, non fa subito effetto, quindi quando c'è la digestione sale un po' quell'effetto. Io ho riso tutta la sera. Poi ti trasformi in Bob Marley Super Saiyan, tipo con i capelli ancora più lunghi del solito. Allora, io direi di andare tromba da Fans Low Ride con I Shot the Sheriff all'altro singolo appena pubblicato. L'album verrà fuori a marzo, no, a marzo, siamo già a marzo, porca miseria. Tra qualche settimana. Tra qualche quindi. Settimana, sì, in primavera pare. La voce è quella di Ben Sidran, che ha scritto un bellissimo testo per questa composizione dedicata ai bambini, la voce di Joey Dragland e Ainè, poi fanno tutto il resto. È veramente bellissimo questo pezzo, me l'hai fatto ascoltare prima, si adatta anche molto secondo me alla visualità, ma quindi magari appunto andrebbe bene con delle videoproiezioni, comunque abbinato a delle immagini. Sì, anche a delle iniziative che so dell'UNICEF per esempio. Sì. Fans Low Ride Led the Children al soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Novità al soundcheck Radio 24, brano intitolato I'm Down, Killiam Shakespeare, il nome di questa formazione con la voce solista di Noel Scales. Allora, Killiam Shakespeare, che cosa sappiamo? Cos'è, un duo? No, è un quartetto. Oh, è aggressivo sto tromba, è un quartetto. Saccente, tra l'altro. Un antipatico forte è tornato. Devo dirlo, da quando sei lì, proprio a Radio 24 a Roma, con Minoli sei cambiato. Sono diventato un infame. Questo non è carino, eh? No, bisogna avere un po' di carattere per imporsi, altrimenti niente. Altrimenti niente. Cioè, quando tu, perché tu sei andato lì a fare che cosa? No, un provino, un incontro, no? Sì, vabbè, ho fatto un colloquio prima di... Allora vorrei sapere quali sono le qualità che richiede Minoli per poter collaborare e entrare nella sua redazione. Voglio sapere. Allora, dico la verità, il colloquio non è andato proprio benissimo, però poi piano piano... Perché ti ha preso? Eri raccomandato? No, non ero raccomandato, però diciamo che sono riuscito a convincerlo in qualche modo. Beh, certamente non con la musica. Anche con la musica. Anche comunque... con la musica, perché chi ascolta Minoli? Vorrei proprio saperlo. No, vabbè, lui ascolta prevalentemente musica italiana. Guarda, però io... è un grande appassionato di Elvis. Io ascolto quasi tutti i giorni, no? La radio, sono molto attento. Io ho notato degli special che hai curato tu su... Sì, diciamo che nella prima parte, soprattutto della trasmissione, la musica quasi sempre la scelgo io da montare appunto nei blob iniziali per introdurre gli argomenti delle puntate. Certo, passare, che ne so, dagli special di Claudio Villa a Killiam Shakespeare, c'è un bel salto, no? Però ti devo dire che ho sperimentato delle cose molto interessanti, come ad esempio montare le dichiarazioni del Papa con in sottofondo la musica di Kendrick Lamar, o Berlusconi con i Public Enemy. Hai fatto queste cose? Sai che sarai scomunicato? No, però ci stava bene. Sì, ma sei stato attento, perché non tutti capiscono l'inglese, soprattutto quando è rappato, perché là ci sono molte parolacce. No, però ho preso dei punti in cui non erano... Da Angioletto, sì, col testo di Kendrick Lamar... Vabbè. Allora, dicevamo Killiam Shakespeare, che cosa sappiamo di Killiam Shakespeare? È una specie di collettivo, mi confermi, tromba? Sì, confermo. Allora, però diciamo che i due capostipiti che hanno fondato questo collettivo sono Corey Bernard e Steve McKay. Corey Bernard è un originario di Boston, però lui studiava economia ad Harvard, ma invece di andare a studiare, insomma, all'università, spesso lo trovavi nei club di Boston, tra cui il famoso Wallis Jazz Club, dove ascoltava un po' quello che ho fatto io, che mi trasferì a Roma per studiare economia e commercio, poi feci un incidente e lasciai l'università perché era troppo pericolosa, e quindi frequentavo solo il Music Inn e altri localacci di jazz e musica, dove c'era molto fermento, per cui ha iniziato, già suonava evidentemente, ma è un bravo ragazzo, suona ancora in chiesa, ogni tanto lo trovi a Brooklyn nel weekend che suona in chiesa. E sai come si sono conosciuti? Dimmelo. Ma che ce ne frega? No, sentiamo, voglio saperlo. Questo è proprio polemico, eh. Suonando nella band di Bilal. Di Bilal, eccoli qui, Killiam Shakespeare featuring Ebony Joy, il brano si intitola Stars. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Sempre dal Groove Mastery Studio per la seconda parte del soundcheck, prova del suono di Radio 24 con Silvia Barba, e questa sera è il ritorno di Francesco Tromba, che ha lasciato il Groove Mastery Studio un po' di mesi fa per lavorare di giorno. Ecco, sì. Lavorare tutti i giorni. La mattina a che ora ti presenti nello studio di Giovanni Minoli? Per le 7, 7:30, dipende dai giorni. Ecco, quindi con un po' di tempo in anticipo rispetto all'airplay in diretta del programma, che parte alle 9. Fai uno spot sul programma di Giovanni Minoli, no? Sei qui. Secondo me è uno dei programmi in assoluto più interessanti presenti, appunto, sull'attualità. Ecco, di Radio 24 o in generale? Sì, in generale. In generale, comunque... del panorama internazionale del giornalismo cosmico. Beh, internazionale non so, non mi ha... Esatto, quando si comunica... Guarda, questo è laureato in scienze della comunicazione, devi sempre esagerare, vendere la mercanzia, come dice il mio amico Renzo Arbo. A livello planetario, allora. A livello planetario. Oh, allora, quindi Minoli si presenta alle 7:30 in punto. Sì. Ti è mai capitato di arrivare in ritardo rispetto a Giovanni? Un paio di volte sì, anche perché prendendo i mezzi pubblici spesso può capitare di arrivare 10 minuti dopo. Ti ha tirato su per i piedi e ha iniziato a... No, ovviamente dipende dai giorni. Alcuni giorni dobbiamo fare delle cose prima delle 9, prima di andare in diretta, quindi magari appunto si arrabbia perché arrivo 10 minuti dopo, però di solito è molto tollerante. Beh, insomma, si arrabbia anche perché i temi che trattate sono di varia natura e in questo periodo si trattano argomenti che non sono divertenti come la musica. No, quello sicuramente no, essendo un programma di attualità ovviamente. Ma infatti ti sei intristito e sei invecchiato, no? Ti manchiamo un po', Tromba, di sì, la verità. Sì, un po' sì, dai. Vabbè, allora, visto che ti manchiamo, ti lascio il compito di presentare questa produzione, secondo volume per Prince. Il primo è stato pubblicato a settembre, che si intitola Hit and Run. Noi non l'abbiamo messo in onda, Tromba, il primo volume, sì, perché non primo ci piacevano. Era quasi imbarazzante, cioè mi dispiace dirlo, qua sto distruggendo tutto. Però veramente, cioè, non sembrava un disco di Prince. Però la prima qui parte. Si è rifatto. Il secondo volume è favoloso e abbiamo scelto un brano corposo intitolato Black Muse, addirittura 7 minuti e 22 di grande arrangiamento, grande musica, mi piace veramente tanto. Anche se alcuni pezzi secondo me sembrano un po' recuperati dal... cioè non sembrano fatti sul momento. Cioè state ascoltando sempre cosa ci deve mettere dicendo. Quella punta di calabrese, no? Che deve dare fastidio. A me piace, è un brano potente e mi fa ballare in cameretta, quindi viva a te, Prince. A te Prince piace anche... sotto altri punti di vista. Ma io, cioè, certo, i musicisti che fanno ballare, che si fanno sì, notare, sì. Io li noto. Sì, noi abbiamo capito tutto di te, Silvia Barba. Allora, Black Muse, Prince al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Lo abbiamo scelto proprio perché Francesco Tromba è venuto a trovarci qui nel Groovemaster Studio di Radio 24. Abbiamo scelto questo artista che ha un nome che è tutto un programma, potrebbe essere quasi un cugino del nostro Francesco Tromba. Infatti si chiama Donny Trumpet, Donny Tromba and the Social Experiment qui al Soundcheck. Sai che io Francesco Tromba lo chiamo Ciccio Trumpet, fratello di Donny Trumpet. No, non siamo parenti purtroppo. No, chi è Donny Trumpet? Allora, Donny Trumpet ovviamente suona la tromba, di nome di fatto, quindi, fatto, un po' come te. Vive a Chicago, lavora a Chicago, però non fatevi ingannare dal suono, è bianco. Perché appunto sembra un musicista nero per il tipo di musica che propone. Sì, però tra l'altro il suono della tromba viene effettato, a volte sembra quasi una tromba campionata, però è proprio l'obiettivo è proprio quello, creare un suono particolare per questi arrangiamenti. Sì, tra l'altro il progetto insieme ai Social Experiment è quello appunto di allargare il più possibile lo spettro sonoro, quindi cercano di coinvolgere dei musicisti di diverse estrazioni, è appunto una sorta di incontro continuo, cioè perché invitano un sacco di amici, ci sono tantissimi featuring, è veramente un bel disco questo. A me è piaciuto tanto perché i brani sono tutti diversi, varie partecipazioni e poi non sembra un disco creato per avere successo ma soltanto per esprimere la propria creatività. Infatti l'hanno messo in download libero quando è uscito a marzo del 2015, mi pare. Quindi anche questa è una produzione indipendente. Sì. Dove l'hai pescato? SoundCloud, stato... Bandcamp, dove? Sì, su SoundCloud. SoundCloud. Allora. Però in realtà non è mai uscito ancora il disco fisico vero e proprio, quindi si può solo scaricare via iTunes o e altri. Hanno fatto bene. Allora, Sunday Candy, il titolo di questo brano, con Jamila Hoods, Donny Trumpet and the Social Experiment, e direi di ascoltare un altro brano e questo è forte, eh? Sì, tra l'altro c'è moltissimo gospel in questo disco, cioè tantissima musica nera, cioè si passa appunto dall'R&B al rap, all'hip hop, strutture jazz, sì, sì, anche alcuni assoli, e qui la partecipazione di un rapper accreditato come Busta Rhymes, c'è anche Janelle Monáe, quindi ci sono anche delle star dell'R&B. Sì, è bellissimo l'inizio di questo pezzo, che sembra un pezzo di una marching band di New Orleans e poi cambia completamente. Sì, e poi c'è una bella evoluzione. Il brano si intitola Sleep Slide, Donny Trumpet and the Social Experiment, per la prima volta al soundcheck di Radio 24. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Si intitola Solid questa composizione di Ty Dolla $ign, brano che spicca in questo suo ultimo lavoro intitolato Free TC, album contemporary hip hop, ma in questo brano, forse anche per la presenza di un veterano come Babyface, il suono è completamente diverso, e anche il fatto di non aver utilizzato strumenti a percussione, batteria o altro regala a questa composizione un sound molto californiano. Sì, infatti non sembra un pezzo scritto da un rapper né suonato da un rapper. Infatti, leggendo un attimo fa qualcosa su Ty Dolla, diceva che in un'intervista che lui non si considera come un vero e proprio rapper, quindi non capisce neanche spesso il contrasto che si crea fra diversi rapper. Lui si vede più come un cantante, come un vocalist, un musicista vero e proprio. Ty Dolla $ign al soundcheck Radio 24 con Silvia Barba, che sta praticamente quasi in adorazione. È vero, io ascolto tromba, lo ascoltavo prima, lo ascolto anche adesso, sono contenta che sia tornato. Beh, no, approfittiamo di lui, visto che poi lunedì tornerà a occuparsi di altro, no? Poverino. Lo facciamo, no, dai, sfogare, poverino, no. Lo facciamo sfogare musicalmente oggi, così poi lunedì sarà carico per affrontare l'informazione insieme a Giovanni Minoli, sempre qui su questi schermi su Radio 24, a partire dalle 9, vedi che lo sai bene. Allora, un'altra novità che ci porta il nostro Francesco Tromba, che, lo ripeto, perde il pelo, e neanche quello, perché sei tornato barbuto forte, come mai? Sì, mi devo rasare. Ma Minoli, sai che Minoli non ha mai collaborato con gente con la barba. In realtà ogni tanto vengono lì sia lui che Mario Sechi e mi dicono: no, ti devi tagliare la barba. Ma infatti hanno ragione, perché o la curi la barba, perché così sembri veramente un pezzente. È un momento in cui ho esagerato. Ma non si tratta così. No, perché lui, che è un vecchio, un giovane intellettuale di sinistra, e non l'ha mai nascosto, però dovrebbe curare l'aspetto, perché così sembra proprio un disgraziato. Ma oggi è sabato, dai, si sta concedendo questa pausa. Beh, ma insomma, uno va ospite in un programma radiofonico, dovrebbe arrivare curato. Invece, guarda, ho litigato con tutti i barbieri di Roma, quindi ho bisogno di tempo per andare che fuori dal comune di Roma. Caratteraccio al peperoncino. Allora, ci hai portato questi Odyssey. Di che cosa stiamo parlando? Cos'è un collettivo, un gruppo, che tipo è di un formazione? È un rapper di Washington. Rapper di Washington. Il sound pure è forte. Sì, molto bravo. Infatti questo ultimo disco che ha pubblicato si chiama The Good Fight, è stato ben recensito anche da OK Player, che è il sito gestito da Questlove dei Roots. Esatto, praticamente se fai black music e passi inosservato da OK Player, non sei nessuno. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Odyssey, il brano si intitola That's Love, fortissimo. Soundcheck, il suono della musica. Il suono del compianto Esbjørn Svensson, Esbjørn Svensson Trio, Gold Rap, composizione bellissima. Quando ascoltai questo pezzo feci proprio un salto sulla sedia, perché effettivamente in qualche modo Esbjørn Svensson, scomparso credo nel 2008, ha anticipato un po' un mondo sonoro per le formazioni in trio di stampo classico, batteria, contrabbasso e pianoforte, però si è sempre divertito a tirar fuori dal pianoforte anche sonorità più vicine al mondo del rock e del pop. È vero, loro si definivano anche un po' un trio rock che suonava il jazz, quindi questa ambientazione anche ipnotica, se vuoi, un po' delle volte. Lui purtroppo ha avuto, come sappiamo, una vicenda molto triste, ovvero sì, c'è anche del mistero. È vero, perché i giornali in quel periodo, insomma, gli addetti ai lavori dissero che lui era molto esperto di immersioni subacquee. In realtà questo non è molto sicuro. Si dice che ha avuto appunto appunto questo incidente in acqua in una delle prime immersioni che faceva, quindi insomma vicenda molto triste, molto tragica. Assolutamente sì, e quindi noi lo ricordiamo, Gold Rap di Esbjørn Svensson qui al Soundcheck di Radio 24. Lo dicevamo, in qualche modo ha anticipato un fenomeno. Adesso molte formazioni in trio anche del reparto black si cimentano, per esempio Robert Glasper anche con le ultime cose che fa in qualche modo mi ricorda Esbjørn Svensson, sì, no? Ci sono cose ipnotiche con tempi dispari. È stato imitato parecchio, anche se spesso non viene citato come vera e propria ispirazione, però ha veramente fatto qualcosa che ha cambiato un po' il mondo del jazz. Il mondo del jazz e soprattutto il suono proprio, sì, della formazione tipica del jazz in trio. Esbjørn Svensson, quindi parlando del pianista Esbjørn Svensson, passerei invece a un pianista giapponese della nuova generazione, molto apprezzato anche da i signori della black music, e questa è una rarità. Vive a New York, esattamente a Brooklyn, e vi stiamo parlando di un signore che ha un titolo, ovvero Big Yuki, invece all'anagrafe si chiama Masayuki Hirano. Masayuki Hirano-san, ecco, fa il sushi sul pianoforte, prepara il sushi, quindi gli spettacoli vanno benissimo. Una bella idea, però sarebbe fortissimo. Dovremmo proporla a Big Yuki, perché visto che a volte pare che la musica dal vivo non funzioni tanto, poi a New York c'è molta concorrenza. Secondo me, se lui stende una bella cosa d'acciaio con i coltellacci giapponesi e prepara il sushi durante l'esibizione, potrebbe essere una soluzione. Potrebbe svoltare. Svoltare, però sta andando bene invece Big Yuki con questa nuova produzione che si intitola Paradise Descended. È il brano che io vi vorrei far ascoltare, anche perché gli altri li ho trovati un po' noiosi, io devo dire la mia. Anch'io, dico la verità. In realtà però sta avendo un discreto successo. Ho letto figurati che se voleva figurati se ci dava ragione. Tromba, io l'ho detto che sta avendo successo, ho detto soltanto che alcuni brani sono un po' noiosi, però io ce n'è uno, dico che la verità, non l'ho ancora ascoltato tutto il disco. Allora ti passiamo il disco. Allora dillo. Allora, il brano si intitola Greek Fire e lui è Big Yuki al Soundcheck di Radio 24. Ma che fai, non saluti? Hai ragione, devo salutare. Il cervello è andato, completamente. Troppe note nella testa. È vero, ci risentiamo domani sera a partire dalle 19:15 per il segmento più jazz del nostro Soundcheck. Vorrei ringraziare Silvia Barba per la partecipazione. Noi domani non ci vediamo perché tu hai un appuntamento, questo lo so. Va bene, però io sono molto contenta di aver assistito a questa reunion sera. Lo sappiamo che ti stai fidanzando, brava, complimenti. Magari, Gege, magari. Ma no, è solo un'uscita così. Con D'Angelo. Addirittura. Invece Tromba, perché non torni domani? Sì, dai. Dai, organizziamo adesso l'airplay, poi andiamo a mangiare. Ok, e ci dai. Raccontiamo un po' di cose. Allora ci risentiamo domani, 19:15, qui dal Groove Master Studio per il Soundcheck. Ed eccolo, sta arrivando Big Yuki con Greek Fire.